Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Le ingerenze esterne da qualsiasi parte esse vengano credo che siano sbagliate e che non aiutino il nostro paese a fare una riflessione vera. Siamo una grande democrazia, non abbiamo bisogno dell'aiuto di altri a dirci cosa va bene e cosa non va bene. Questo, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, è Roberto Speranza, che è intervenuto oggi su una vicenda che è diventato un vero e proprio caso, che ha fatto ribellare l'opposizione, cioè l'ambasciatore americano in Italia, che ha detto, a proposito del referendum costituzionale, che ormai è il tormentone da mesi, ha detto: se dovesse vincere il no in Italia sarebbe un grave passo indietro anche per gli investimenti stranieri. Poi ci si è messa anche sulla stessa linea l'agenzia di rating Fitch, e quindi diciamo, insomma, che c'è stata molta turbolenza, molta fibrillazione e con naturalmente reazioni varie di cui poi parleremo di politica in generale, perché tra l'altro il Movimento 5 Stelle è sempre in primissimo piano, perché Di Maio sarà stasera Politics su Rai 3 dopo che aveva disertato la settimana scorsa, aveva fatto arrabbiare anche il conduttore perché era in mezzo al caos del caso Roma. In più c'è finito poco fa, se non sbaglio, Di Battista, altro esponente del direttorio del Movimento 5 Stelle, che era 8:30, quindi una presenza oggi piuttosto ampia sulle televisioni. C'era tra l'altro l'incontro tra Chiara Appendino e la sindaca di Roma Raggi, quindi l'incontro tra le due sindache più in vista d'Italia, tutte e due del Movimento 5 Stelle, molti altri temi. Qui a Effetto Notte c'è anche una storia molto particolare, controversa, vediamo se riusciamo a raggiungere una persona per parlarne. Intanto però vi ricordo che per i vostri messaggi, per le vostre opinioni, domande, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666. Altro tema importante, quello della legittima difesa, perché dopo i casi degli ultimi mesi in cui chi si difendeva da rapine in casa o nei propri negozi e poi veniva accusato di eccesso in colposo in legittima difesa, invece c'è stato un caso di archiviazione. Anche su questo potete esprimere la vostra opinione. Intanto i titoli più importanti. Referendum, l'ambasciata americana si schiera per il sì, il no sarebbe un passo indietro, avverte l'ambasciatore. Opposizione e minoranza PD in rivolta. Economia, Renzi conferma che i dati di stima del PIL sono inferiori al previsto. Il ministro Padoan spiega che l'economia italiana cresce ma non così velocemente, le previsioni saranno riviste a ribasso, dice. Movimento 5 Stelle, Raggi e Appendino insieme in Campidoglio. Di Battista, 8:30, dice: su Muraro abbiamo sbagliato a non parlare subito, l'allargamento del direttorio è fisiologico. Libia, pronto a partire il contingente italiano di medici e militari, ma è solo una missione umanitaria, spiegano i ministri Gentiloni e Pinotti. Presidenziale americana, dopo il malore Hillary tornerà in campo venerdì, Obama assicura: farò tutto il possibile per la sua elezione. Terrorismo, avevano legami con gli attentatori di Parigi, i siriani arrestati in Germania, era una cellula in sonno dell'ISIS. Israele, l'ex presidente Shimon Peres colpito da ictus, ora in coma farmacologico. Charlie Hebdo, la rivista satirica, replica alla querela, la denuncia di Amatrice non ci fa paura. Oggi prima campanella intanto nella scuola, costruita a tempi di record. Legittima difesa, la procura di Milano archivia il caso del gioielliere che la sera del 24 novembre sparò uccidendo un rapinatore albanese entrato nella sua casa insieme con due complici. Lutto nella letteratura, è morto a 89 anni lo scrittore napoletano Ermanno Rea, ha formato la coscienza critica di Napoli, dice il sindaco De Magistris. Calcio, torna alla Champions League, in campo il Napoli contro la Dinamo Kiev. Partiamo quindi dalle dichiarazioni dell'ambasciatore americano in Italia sul referendum costituzionale. Avete sentito all'inizio l'esponente della minoranza del PD, Roberto Speranza, che diceva, insomma, non ci devono essere ingerenze, così anche come le opposizioni. Dichiarazioni che quindi sono diventate un caso insieme alle pressioni di un'agenzia di rating contro una possibile vittoria del no. Una vittoria del no al referendum sulla riforma costituzionale sarebbe un passo indietro per gli investimenti stranieri in Italia. A dirsene convinto è l'ambasciatore americano a Roma, secondo John Phillips. Per attrarre capitali stranieri, il nostro paese deve garantire una maggiore stabilità politica e il voto sulle riforme offre una speranza in questo senso. A fargli eco oggi è anche l'agenzia di rating Fitch, secondo cui una vittoria del no potrebbe avere un impatto negativo sulla nostra economia e quindi anche sulla rating dell'Italia, giudizi che non piacciono al fronte del no e alle opposizioni. Quello dell'ambasciatore americano è un'interpretazione intervento a gamba tesa, una grave ingerenza negli affari interni di un altro paese. Attaccano Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle, ma qualche voce critica si leva anche dalla maggioranza. Da non credere, ma per chi ci prendono? Se vince il no, non succede nulla, commenta l'ex segretario democratico Bersani. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Insomma, avete sentito, questo è il caso del giorno, ma passiamo nel frattempo all'economia con le ammissioni del governo su una crescita che non procede come si vorrebbe. L'economia sta crescendo, non così velocemente come vorremmo, ammette il ministro dell'economia Padoan, da qui la necessità di rivedere al ribasso le stime del PIL che il governo inserirà ad ottobre nel documento di economia e finanza. Dopo 3 anni di prolungata recessione, fa notare tuttavia il titolare del tesoro, l'economia è comunque in terreno positivo e sta generando posti di lavoro. La revisione del PIL, commenta quindi il ministro dello sviluppo economico Calenda, era una cosa aspettata e ci indica solo il fatto che dobbiamo lavorare ancora di più sulla competitività del paese. Nessuna sorpresa anche per il presidente di Confindustria Boccia. Era in linea un po' con i dati del centro studi, è evidente che il rallentamento anche della questione internazionale comportava questa previsione, una ragione in più per far conto sulla competitività delle imprese italiane e non avere alibi per affrontare la grande questione industriale italiana. Il tema della crescita deve essere la priorità, commenta dalla CISL Furlan. Abbiamo bisogno di investimenti per la crescita, investimenti pubblici e investimenti privati. Critiche con il governo, le opposizioni, il governo ha truccato i conti e ora esce allo scoperto, spiega Brunetta da Forza Italia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sotto il gonfalone, con l'immagine di Sant'Ambrogio, il premier firma un patto e chiede a Milano un impegno: prendere per mano il paese e portarlo fuori da una situazione che è ancora di difficoltà, ma che ha tutti i segnali per fare il grande salto. Ed è in questa prospettiva che Matteo Renzi legge anche gli ultimi dati del PIL, più bassi delle attese. I dati del PIL sono tornati positivi, ma ancora non vanno con la velocità che noi vorremmo. E quando accade questo, il nostro governo dice la verità, non racconta barzellette. Se l'Italia semplifica, taglia e diventa efficace, insomma, può essere il paese leader del futuro per il premier, che indica la strada delle riforme ma non nasconde i nodi rimasti, a cominciare dalle banche. E anche su questo è di nuovo Milano la città a cui ispirarsi, qui dove si è fatta una grande fusione. I problemi delle banche sono problemi che l'Italia può risolvere, sono problemi decisamente inferiori rispetto ad altri paesi forti. Sotto al Duomo, dove è stato firmato un patto da 2,5 miliardi per metro, post Expo, welfare, Seveso e periferie, il premier tornerà a breve molte altre volte qui nella città, che dà occasione e speranza, dice, a dispetto dei gufi che giocano contro l'Italia. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica nazionale, con il Movimento 5 Stelle e le sindache 5 Stelle di Roma e Torino che si sono incontrate oggi in Campidoglio. Intanto Di Battista, 8,5 sul caso Muraro, dice: abbiamo sbagliato, dovevamo parlare subito, e assicura che all'interno del movimento non c'è nessuna lotta di potere. Chiara Appendino scende in Campidoglio da Torino per aiutare Virginia Raggi. Ufficialmente le due sindache del Movimento 5 Stelle si incontrano con foto dal balcone di Palazzo Senatorio che dà sui Fori Romani per parlare di città metropolitana e collaborazione su progetti culturali. Smentisce poi Appendino che Raggi abbia bisogno dei suoi consigli, anche perché Torino e Roma sono molto diverse. Intanto arriva la nuova gaffa di Luigi Di Maio. Il vicepresidente della Camera paragona il premier Matteo Renzi al dittatore Pinochet, che però colloca in Venezuela invece che in Cile. A parte lo sfottò sui social su Di Maio, il premier viene difeso anche dalla minoranza Dem per un paragone definito squallido, mentre continua ad attaccare il sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Il punto non è Di Maio, ma il direttorio che non ha raggiunto i risultati. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sentiamolo poco fa, 8,5, Di Battista, che dice appunto che sono stati fatti degli errori e che però ci sono oneri e onori a fare il sindaco, e quindi la sindaca Raggi, insomma, si prende naturalmente la sua autonomia, la sua responsabilità. Sentiamo. Al netto di alcuni, ripeto, leggerezze portate e di errori portati soprattutto dalla voglia di dare una grande mano, e che probabilmente quando si ha una grande voglia di interagire, di dare una mano, si possono commettere degli errori. Oggi il sindaco Raggi è del tutto autonoma, del tutto, oneri e onori alla responsabilità di governare. Adesso invece passiamo direttamente, in diretta appunto, il bisticcio di parole a Di Maio, che appare su Rai 3, ha appena cominciato a parlare a Politics. Sentiamo cosa dice. Non è composto solo da coloro che sostengono il sì al referendum. Lo Stato italiano è fatto da cittadini e cittadine che sostengono il no, che sostengono il sì, che non lo so, decideranno di astenersi, e quando ci si rivolge ad un altro Stato, bisogna tener presente anche le diverse opinioni. Detto questo, però, io penso pure un'altra cosa, che anche se volessimo considerare la promessa elettorale dell'ambasciatore statunitense una promessa valida, io credo che sia vero proprio il contrario. Cioè, leggendo la riforma costituzionale, ci rendiamo conto che per come è scritta e per come è composta, sostanzialmente congestionerà lo Stato. Se i presidenti di Camera, l'opinione è di Luigi Di Maio, che vi ricordo tra l'altro, oltre che leader in pectore del Movimento 5 Stelle, è anche vicepresidente della Camera, è intervenuto, dicevo, sul caso del giorno, quello dell'ambasciatore americano che ha detto la sua sul referendum. Siamo alla politica estera italiana, parte l'operazione Ippocrate in Libia, l'Italia invierà 300 militari per allestire un ospedale da campo a Misurata e poi ne parleremo. In Siria intanto Mosca accusa i ribelli ad Aleppo di violare la tregua che era iniziata ieri, doveva durare per 7 giorni. Nella notte 6 morti e 10 feriti, registrate quindi 23 violazioni di questa tregua. Intanto si apprende dall'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani che sono oltre 300.000, di cui circa 86.000 civili, i morti registrati finora nella guerra civile in Siria iniziata nel 2015. Quindi 300.000 nel 2011, scusate, 300.000 morti, di cui 86.000 civili. Ora in Germania, dove oggi si è svolta un'operazione antiterrorismo contro una cellula dormiente dell'ISIS. Una cellula dormiente in attesa di istruzioni e con inquietanti legami con gli attentatori di Parigi. I 3 cittadini siriani arrestati nel nord della Germania, d'età compresa tra i 17 e i 26 anni, sono stati inviati dall'ISIS in Europa nell'autunno 2015 con una missione precisa. A rivelarlo il ministro dell'interno tedesco Thomas de Maizière. Nach bisherigen Kenntnisstand. Tutto sembra indicare che i 3 sospettati siano stati aiutati dallo stesso gruppo che ha organizzato il viaggio di alcuni attentatori di Parigi lungo la rotta balcanica, ha precisato de Maizière, secondo il quale pure i documenti di viaggio sarebbero stati contraffatti dal califfato. Almeno uno dei 3, il 17enne Mahir, sarebbe stato addestrato all'utilizzo di armi ed esplosivi in Siria prima della partenza. I 3 venivano monitorati e spiati da tempo dalle autorità tedesche. Non ci sarebbero indizi sulla pianificazione di un attacco imminente, ma si sospetta che fossero o in attesa di istruzioni oppure avessero compiti preassegnati che a questo punto andranno decifrati. Nell'operazione di arresto sono stati coinvolti 200 agenti dell'unità speciali antiterrorismo con perquisizioni in 3 centri d'accoglienza profughi in alcune abitazioni. Ad inquietare è soprattutto il filo che lega il trio alla cellula parigina, il segnale che, al di là delle frequenti azioni terroristiche contro la Francia, l'obiettivo dell'ISIS è sempre di più l'Europa e l'Occidente. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Presidenziale americane, dopo il malore di Hillary Clinton per la polmonite, tornerà in campo per la campagna elettorale venerdì. Intanto il presidente americano Obama assicura: farò tutto il possibile per la sua elezione. Arriva una notizia da Israele: l'ex presidente Shimon Peres, colpito da ictus, è ora in coma farmacologico. Secondo i media israeliani le sue condizioni sarebbero serie. Peres, ricorda, ha 93 anni e a gennaio era stato ricoverato per problemi cardiaci. Gli orrori dell'ISIS, che ha celebrato la festa musulmana di Eid al-Adha in Siria, iniziata ieri col sacrificio di 15 vite umane sgozzate, seguendo esattamente le procedure di sacrificio degli agnelli, come se servisse altro orrore per confermare la natura dell'ISIS. Di nuovo in Italia, con la cronaca, la procura di Milano ha stabilito l'archiviazione per Rodolfo Corazzo, il gioielliere che la sera del 24 novembre sparò uccidendo un rapinatore albanese entrato nella sua casa insieme con 2 complici. I 3 avevano minacciato la figlia di 10 anni del gioielliere. L'uomo, con un regolare porto d'armi, era stato indagato per eccesso colposo in legittima difesa ed è stata archiviata l'accusa. Processo Morosini, processo di primo grado sulla morte del calciatore del Livorno Pier Mario Morosini, condannati a 1 anno di reclusione il medico del 118 di Pescara e 8 mesi il medico sociale del Livorno e il medico del Pescara per non aver utilizzato in modo adeguato i defibrillatori quando si era sentito male sul campo Morosini. E poi un lutto nella letteratura: è morto a 89 anni Ermanno Rea, giornalista e scrittore napoletano. Vinse il premio Viareggio nel 96 con il romanzo autobiografico Mistero Napoletano, Il Campiello nel 99 con Fuochi Fiammanti a 1 ora di notte. Finalista al premio Strega nel 2008 con Napoli Ferrovie. La sua ultima opera, Il Caso Piegari, nel 2014. De Magistris lo ha definito come la coscienza critica di Napoli. E adesso, per chiudere, lo sport. Il Comitato Olimpico Internazionale ha confermato che il sistema antidoping della WADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping, è stato violato da hacker russi. I pirati informatici hanno reso pubblici documenti che attesterebbero l'assunzione di sostanze dopanti da parte di alcuni atleti statunitensi che hanno partecipato alle Olimpiadi di Rio. Tra questi ci sarebbero i nomi di Simone Biles, la ginnasta afroamericana vincitrice di 4 ori, e le sorelle campionessa del tennis Williams. Calcio infine, torna alla Champions League, torna quindi il nostro Dario Ricci. C'è il Napoli in campo, vero Dario? Sì, Napoli in campo, cara Roberta, e finora butta male per i partenopei, perché siamo al 32esimo di gioco a Kiev ed è in vantaggio proprio la Dinamo, che è passata avanti al 26esimo con una bella girata di Garmash sotto misura di destro a battere Reina, quel Reina che già era stato decisivo sin dal primo minuto quando aveva deviato una conclusione praticamente da centrocampo di Sidorchuk. Dinamo decisamente in controllo della partita, partenopei invece decisamente addormentati e che non danno finora segno di risveglio. Nelle altre gare della serata, rapidamente, i risultati che finora sono cambiati: Barcellona-Celtic 1-0, nel gruppo del Napoli Benfica in vantaggio sul Besiktas 1-0 e poi Paris Saint-Germain-Arsenal 1-0. Grazie Dario, speriamo che nel frattempo si svegli il Napoli, i giocatori del Napoli. Intanto vi do anche questa notizia che arriva adesso: Twitter addio ai 140 caratteri dal 19 settembre, quindi gli appassionati si possono allargare tra pochi giorni. Intanto invece qui bisogna restringersi un attimo perché i tempi corrono, c'è la viabilità tra pochissimo, per i vostri messaggi pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Di Maio, leggo un messaggio: punta di diamante Movimento 5 Stelle, oggi su Facebook ha scritto che Pinochet era venezuelano, tralasciando che il paragone Renzi-Pinochet, vediamo, apriamo questo Twitter, Pinochet è un'assurdità, questo lo scrive Nicola, si è fatto questa gaffa, Pinochet sappiamo tutti dittatore cileno, ha detto venezuelano, e comunque anche su questo ci sono state critiche al di là della gaffa sul fatto di questo paragone abbastanza duro. Tra poco ci sentiamo, viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano con voi, le notizie ve le ho raccontate, vi ho riassunto come sempre la giornata nella prima parte, adesso cominciamo ad approfondire i vari argomenti con gli ospiti. Intanto i vostri commenti al 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi sempre giorno e notte. Per esempio sul caso dell'archiviazione per il gioielliere Rodolfo Corazzo, che aveva ucciso un rapinatore albanese che era entrato in casa sua, i vostri messaggi sulla pagina Facebook. Simone dice: difficile commentare, rispettiamo il giudizio del tribunale, ma uccidere un uomo è una cosa orrenda. Poi ne parleremo con una giurista esperta proprio di questo tema della legittima difesa. E ancora altri messaggi, per esempio Villa, che dice: ho letto che il bandito era un ergastolano latitante ed era fuori, questo è vero, se stava dentro dice era ancora vivo. Per Alessandra, difficile giudicare. Poi insomma cercheremo di fare un'idea su questo argomento molto popolare, molto caldo. Ancora insomma non c'è una legge italiana dopo i vari casi che si sono susseguiti, che hanno creato sicuramente molto clamore e anche molta impressione. Tra pochissimo quindi la politica. Intanto vi ricordo, se non avete acceso puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti. Ambasciata americana si schiera contro il no al referendum, dice l'ambasciatore, sarebbe un passo indietro, rincara anche l'agenzia Fitch, c'è l'ira di Forza Italia. Di Maio contro Renzi dice come Pinochet. Renzi conferma il PIL più basso, possiamo però fare di più, il ministro Padoan, previsioni sono al ribasso, e intanto Draghi dice avanti sul mercato unico per quanto riguarda l'Europa. Raggi e Appendino, le due sindache oggi insieme in Campidoglio, anche con una foto insieme davanti a un caffè. Pizzarotti, intanto il sindaco sospeso al Movimento 5 Stelle a Parma, dice contro il direttorio, diversità di trattamento, due pesi e due misure. Dopo il malore per quanto riguarda le presidenziali americane, Hillary Clinton tornerà in campo venerdì, non pensavo fosse un problema, dice la sua polmonite. Bill sarà presente ai prossimi incontri al posto della moglie, Obama dice voglio che sia davvero eletta. germani arrestati jihadisti avevano legami con gli attentatori di Parigi. Charlie Hebdo, la rivista satirica, dice la denuncia di Amatrice per la vignette sul sisma non ci fa paura. Intanto oggi c'è stata la prima campanella nella scuola costruita a tempi di record ad Amatrice, cuore purtroppo del terremoto di agosto. E poi hacker nel sito WADA dell'Agenzia Antidoping Internazionale, sostanze vietate per atleti americani, tutto ancora naturalmente da verificare. Poi addio Herman Norea, credeva nella salvezza attraverso i romanzi. E abbiamo subito un gol del Napoli, si è svegliato il Napoli, Dario? Sì, cara Roberta, l'abbiamo chiamato, il risveglio dei partenopei, che siamo al 37esimo, un minuto fa è arrivato il pareggio degli azzurri di Sarri, il gol ancora una volta del polacco Milik, un bel colpo di testa a battere il portiere della Dinamo Kiev. Insomma, questo Milik davvero non sta facendo rimpiangere finora quell'Higuain volato a Torino a suon di milioni. Dinamo Kiev 1, Napoli 1, quando siamo al 38 di gioco. Che lui però non avrà rimpianto i milioni. C'è sempre Di Maio, Politics, sentiamo cosa sta dicendo. Questa vicenda ha cambiato in qualche maniera la vostra percezione anche sul garantismo. Lei diceva, questo è il giornalista Semprini, conduttore, per me ai politici non va applicata la presunzione di innocenza. Allora sulla Muraro, beh, presunzione di innocenza significa che anche se c'è, voglio dire, il garantismo per gli altri, per esempio per Matteo Renzi, significa fino al terzo grado di giudizio, fino alla condanna definitiva, si è sempre garantisti. Sì. Per me, se in un avviso di garanzia o in una fase di rinvio a giudizio emergono dei fatti che sono gravi per la persona, dal punto di vista politico esiste l'opportunità politica di fare un passo indietro. Qual è adesso l'opportunità politica per la Muraro? Leggere le carte se arriva questo avviso di garanzia, non sapremo quando arriverà. E ovviamente non sto chiedendo alla procura di mandarlo il prima possibile, avranno i suoi tempi, decideranno loro. Lette le carte, valuteremo se esiste un'opportunità politica di andare avanti o un'inopportunità politica di andare avanti. Saluto Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore, bentornata Barbara. Grazie, buonasera. Quindi hai sentito Di Maio, dopo le molte turbolenze che anche l'hanno coinvolto la scorsa settimana sul caso Roma, e aveva disertato Politics, doveva essere presente già alla prima puntata. Stasera c'è un torrente in piena, mi sembra sicuro di sé. E tu hai potuto seguire qualcosa già? Sì, ho potuto seguire, anche se ti devo dire che la notizia, secondo me, finora, televisivamente parlando, è data di Battista a 8:30 sulla 7. Ho seguito dicendo che la Raggi è autonoma e lei onori e oneri? Dicendo che la Raggi è autonoma, ma aprendo anche all'ipotesi di un governo di scopo qualora vincesse il no al referendum istituzionale. Sì. Ecco, quindi questo mi sembra una notizia, appunto, perché finora i 5 Stelle avevano detto sempre il contrario, ovvero che loro non avrebbero mai partecipato, diciamo, al governo o qualcuno. Sì, questa apertura non è un'apertura, insomma, non una vera e propria apertura. Lui dice: sentiremo Mattarella, ma noi non siamo pregiudizialmente contrari a un governo di scopo per una nuova legge elettorale. Quindi questo mi sembra un dato. Per quanto riguarda la vicenda romana, ormai mi sembra che siamo in attesa di un avviso di garanzia all'assessora Muraro, come diceva poco fa Di Maio, e quindi poi lì si vedranno anche i reati contestati, se è solo il reato quello ambientale oppure se c'è qualcos'altro. E l'altro aspetto è appunto l'assessore al bilancio, che ancora non c'è e per il quale la Raggi, dopo il passo falso con De Domini, si è revocato in 24 ore, ha deciso di prendersi tempo, insomma, per decidere. Senti, questa apertura di Battista, e che quindi dietro c'è Grillo, naturalmente, immagino, no, ad aver detto sì, potremmo partecipare a un governo di scopo. Non lo so, perché proprio di Battista, mentre era appunto intervistato dalla Gruber, facevano vedere, ad esempio, sulle Olimpiadi, che Di Maio, sempre 8:30 alle Olimpiadi, aveva detto che se avesse vinto la Raggi le Olimpiadi si sarebbero fatte, perché appunto il movimento avrebbe garantito che non ci sarebbero state, come dire, delle speculazioni. Di Battista stasera ha detto: i romani, nessun romano vuole le Olimpiadi. Oggi, no, ma il movimento, poi abbiamo visto che recentemente ha detto di no. Quindi dire oggi è molta tattica, questa è normale, cioè lo fa il Movimento 5 Stelle, lo fanno tutti. Chi dice, ad esempio, non so, il Renzi che dice: cambierò l'Italicum, cambieremo l'Italicum, beh, vediamo, probabilmente questa disponibilità del Premier qualora vincesse il no al referendum, credo che non sarebbe poi così, non la confermerebbe così come la sta confermando oggi, qualora vincesse il sì, scusami, al referendum, ma non la confermerebbe così come la sta confermando oggi. Quindi sono tatticismi, aperture che per capire cosa sono bugiardi, cosa succede? Essenzialmente sono dei bugiardoni. Ah, l'hai detto. Sentiamo Di Maio ancora, sentiamo cosa dice. Ci siamo Politics voluti misurare con tante esperienze amministrative e quella di Roma è la più grande. Ci possono essere degli errori? Certo. L'unica cosa che io mi chiedo è: in Sicilia c'è un governatore che ha cambiato, si chiama Rosario Crocetta del PD, 40 assessori in 4 anni, quasi uno al mese. E non se l'è mai filato nessuno. Non fa notizia. Qui abbiamo cambiato e stiamo cambiando un assessore al bilancio. Gli errori ci sono? Certo che ci sono, ma perché siamo una forza politica che ha ancora tanta strada da fare. Ma Roma la stiamo governando. Io l'unica Questo. Quindi dice, insomma, gli altri, noi siamo troppo nel mirino sotto i riflettori. Roma la stiamo governando, avrai qualche perplessità comunque, va bene tutto. Qualche misura l'avrà presa la sindaca Raggi? No, per ora no, però voglio dire, sai, l'assessore al bilancio non è un assessore qualunque, insomma, non è l'assessore agli affari sociali. Cioè, senza assessore al bilancio si finisce commissariati, Il rischio è quello, però dice dobbiamo fare esperienza, l'ha ammesso, abbiamo fatto degli errori. Senti Barbara, abbiamo un minuto per una tua opinione su questa dichiarazione dell'ambasciatore americano, insomma, sollevato l'ira di tutte le opposizioni, compreso il Movimento 5 Stelle, no? Che dice... E credo che abbia sollevato anche il fastidio di Renzi, perché può essere controproducente, tra l'altro. Certo, queste intrusioni non richieste in realtà non favoriscono certo la campagna per il sì del Presidente del Consiglio. È ovvio che viene vista da tutti giustamente come un'invasione di campo non richiesta e quindi l'ambasciatore USA farebbe bene a occuparsi delle sue cose, anche perché mi sembra che abbiano di che occuparsi in questo periodo. Diremmo di sì. Sul fronte interno che sul fronte esterno. Grazie Barbara Fiammeri, ciao Barbara. Grazie a voi. Buon lavoro, ciao. Ora invece spostiamoci sulla politica estera, la Libia, ne abbiamo parlato in parte anche ieri, questa nascita auspicata dall'Occidente, di un governo di unità nazionale, insomma tarda a venire perché ci sono ancora questi due governi divisi, quello di Tripoli e quello di Tobruk, poi ci sono anche mille tribù, insomma una situazione molto caotica, molto complessa. Intanto scoppia la battaglia per assicurarsi i pozzi di petrolio e l'Italia nel frattempo, accogliendo una richiesta del capo di governo di accordo nazionale libico Sarraj, ha annunciato l'imminente missione umanitaria che prevede la predisposizione in Libia di un ospedale militare e quindi anche di un contingente italiano di medici e di militari, i medici che ci lavoreranno e i militari che dovranno garantire la sicurezza. Ne parliamo con Andrea Margelletti, presidente del CESI, Centro Studi Internazionali. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti voi e grazie per l'ospitalità. Grazie a te Andrea. Senti, intanto subito anche qui le opposizioni hanno avuto da ridire, in particolare il Movimento 5 Stelle. Oggi è stata presentata questa missione in Parlamento dal Ministro Gentiloni e dalla Ministra della Difesa Pinotti. Dice il Movimento 5 Stelle questa è una guerra camuffata da missione umanitaria. Però Gentiloni ha assicurato che non ci saranno i boots on the ground, gli stivali per terra, insomma non ci saranno operazioni di terra, non è un'operazione di guerra. Che cos'è? Esattamente quello che tu hai detto. Il mio intervento di per sé è inutile perché tu sei stata così precisa ad aver delineato tutto. È un'operazione umanitaria che ha come centro la creazione di un ospedale militare. Ovviamente, dato che non stiamo parlando di mettere un ospedale ad Amatrice, dove le condizioni sono assolutamente di sicurezza per tutti, ma si parla di metterlo in Libia, ci vogliono le necessarie precauzioni ed è per questo che il governo manda, oltre al personale militare medico della sanità, manda anche un contingente che protegga i nostri medici, il nostro personale sanitario, in maniera tale che possano fare il loro mestiere con la giusta serenità. Ma Andrea, per quanto riguarda la posizione dell'Italia, quindi questa missione umanitaria, nel frattempo che cosa succede? Anche noi abbiamo i nostri interessi, al di là delle missioni umanitarie, no? I pozzi petroliferi, i leni, eccetera. Come stiamo a guardare a questa guerra ancora si può dire, visto che comunque ci sono sempre questi due governi, no? Che si lanciano battaglie tra loro. È indiscutibilmente uno scenario di guerra civile, ma sarebbe da stupirsi se l'Italia non avesse i propri interessi, come li hanno tutti moltissimi altri paesi del mondo. Io vorrei che ci fosse, non lo so, cadesse un po' una maschera di ipocrisia. Tutte le nazioni hanno i propri interessi e lo fanno per arricchire il benessere dei propri cittadini. Devo di capirci, il fatto che l'Italia possa avere interessi e mantenerli in Libia aiuta la popolazione italiana, non ne va a detrimento. Il petrolio e quanto altro, l'immigrazione. Quindi l'Italia ha tutti gli interessi ad avere una situazione in Libia di stabilità. Ed è per questo che partecipa a dialoghi, a piattaforme per ottenere, diciamo, concordare con le realtà locali una situazione meno confusa e guerreggiata di quella attuale. Andrea Margelletti, ma della comunità internazionale chi è presente davvero sul campo? Allora, se stiamo parlando di forze speciali. Sono presumibilmente, ovviamente forze speciali nessun paese ne ammette la presenza, questo mi pare un fatto logico e doveroso. L'operato dei servizi di intelligence e delle forze speciali, che sono cose profondamente diverse, devono sempre essere mantenuti nel loro giusto alone di riservatezza. Possiamo dire che sono molto presumibilmente presenti gli americani, i francesi, i britannici, forse gli italiani, molto probabilmente gli emiratini e i turchi e naturalmente gli egiziani. Si arriverà prima o poi a un punto a fare davvero questo governo di unità nazionale? Sarà possibile secondo te, Andrea? In che tempi, per chiudere? Roberta, ce l'auguriamo, ma la vedo difficile per due ragioni. Prima di tutto non c'è un accordo internazionale su quale strategia avere in Libia. Gli inglesi e i francesi fanno una partita, gli italiani un'altra, i turchi, gli emiratini, non parliamo degli egiziani. E naturalmente se non si mettono d'accordo gli attori forti esterni diventa assai difficile in qualche maniera forzare le realtà tribali a sedersi attorno al tavolo e in una qualche maniera obbligarle a dialogare tra di loro. Chiarissimo, grazie Andrea Margelletti, presidente del CESI. Ciao Andrea. A voi, grazie, a presto. Buona serata. E abbiamo un altro gol del Napoli. Proprio ha preso un caffè alla fine, Dario. Sembrava addormentato, poi si è ripreso. Eh sì, veramente ha sentito il nostro auspicio, la squadra la di sollecitazione, Sarri. Sì. Ti ricordi, abbiamo raccontato prima l'1-0 segnato da Karmaš al 26esimo per la Dinamo Kiev, e poi doppietta di Milik al gol al 35esimo, arrivato, si è sommato quello allo scadere del primo tempo, un batti e ribatti dopo un cross di Calleone, un colpo di testa di Mertens, bravo ancora una volta Milik a infilarsi sotto misura e a siglare di testa il 2-1, insomma questo polacco segna come Higuain e costa decisamente meno. Vuoi vedere che l'affare l'ha fatto il Napoli, Roberta? Quindi il risultato per il momento? Dinamo Kiev 1, Napoli 2 alla fine del primo tempo. Grazie Dario Ricci, ci risentiamo più tardi. Sentiamo un attimo ancora Di Maio su Rai 3 Politics. Come abolire l'immunità parlamentare, come eliminare gli enti inutili che sono in Costituzione, come andare a toccare il vincolo di mandato, perché io faccio parte della legislatura purtroppo col più alto numero di voltagabbana della storia. E se non modifichiamo la Costituzione e blocchiamo i cambi di casacca, avremo sempre governi. Quindi sta parlando Di Maio di altro tipo di riforme. Non del referendum di cui ha parlato prima. Ci dobbiamo fermare, arrivano intanto i vostri messaggi al 349-238-6666, numero per WhatsApp, SMS, anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Tra pochissimo parleremo di legittima difesa. A questo proposito, per esempio, c'è Luciano che scrive: quando viene meno la sicurezza della propria famiglia, penso che un genitore sparerebbe pure i moscerini. Chi va a rubare a casa altrui lo sa che può finire male. A tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Effetto. Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Continuate pure con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, che è il numero per messaggi e WhatsApp. Dice un ascoltatore: non basta sbandierare l'onestà, ci vuole competenza, non si può prendere quattro disoccupati e metterli in ruoli così importanti. Vabbè, mi pare che siano tutti disoccupati, sta parlando del Movimento 5 Stelle. Abbiamo sentito poco fa Di Maio a Politics su Rai 3, poi Di Battista, qualche passaggio a 8:30. E un altro scrive: ma voi dareste mai la guida del paese al Movimento 5 Stelle? Sono improvvisati su tutto, fanno tenerezza. Un altro scrive: che tristezza vedere la Raggi e l'Appendino al balcone, sembravano due studentesse alle superiori. Non capisco però questa tristezza, sinceramente. Mi pare, al di là delle difficoltà della giunta Raggi adesso, speriamo siano superate per il bene di tutti, non mi sembra solo perché sono giovani, magari carine, sorridenti, non vedo perché devono superare due studentesse sprovvedute. Poi qualcuno dice sulla pagina Facebook di Effetto Notte: e questa storia della Raggi che va a far la spesa con la scorta, in realtà è stata la questura di Roma che ha obbligato la Raggi ad avere una scorta dopo che lei ha ricevuto diverse minacce, è stata pedinata, insomma, quindi per una questione di sicurezza. Tra poco passiamo all'argomento della legittima difesa. Intanto vi ricordo quali sono le notizie più importanti. Referendum, l'ambasciata americana si schiera per il sì, il no sarebbe un passo indietro, avverte l'ambasciatore. Opposizione e minoranza PD in rivolta. Economia, Renzi conferma che i dati di stima del PIL sono inferiori al previsto. Il ministro Padoan spiega che l'economia italiana cresce ma non così velocemente e le previsioni saranno appunto a ribasso. Movimento 5 Stelle, Raggi e Appendino insieme in Campidoglio. Di Battista 8:30 dice: su Muraro abbiamo sbagliato a non parlare subito, l'allargamento del direttorio è fisiologico. Di Maio più o meno la stessa cosa sugli errori relativamente a Muraro. A Roma. Libia pronto a partire il contingente italiano di medici e militari, ma è solo una missione umanitaria, come spiegano i ministri Gentiloni e Pinotti. Presidenziali americane: dopo il malore Hillary Clinton tornerà in campo venerdì. Obama assicura: farò tutto il possibile per la sua elezione. Per il calcio c'è il Napoli in Champions League contro la Dinamo Kiev. Per il momento conduce 2-1. Vi dicevo, quindi parliamo di legittima difesa, un tema molto dibattuto, molto delicato, che accende gli animi, soprattutto dopo gli ultimi episodi di rapine nelle abitazioni o in esercizi commerciali, con la reazione armata delle vittime che ha provocato magari il ferimento o l'uccisione dei ladri, e quindi poi l'accusa alle vittime di eccesso colposo in difesa. È notizia di oggi però di un caso in cui il rapinatore è stato ucciso, per il qual caso c'è stata accusa di eccesso colposo che è stata però archiviata. La PM di Milano infatti ha chiesto l'archiviazione per Rodolfo Corazzo, il gioielliere che la sera del 24 novembre sparò uccidendo un rapinatore albanese entrato nella sua casa insieme a due complici ancora latitanti. Questo rapinatore albanese tra l'altro era un ergastolano latitante. Corazzo quella sera era appena tornato dal lavoro, aveva parcheggiato la moto nel garage della sua villetta, era stato aggredito da questi tre banditi col volto coperto da passamontagne, picchiato, portato in casa dove c'era la moglie e la figlia, minacciata la bambina di 10 anni, poi uno scontro a fuoco, insomma i banditi che scappano, lui che spara un colpo in aria, loro che sparano verso di lui e lui che si difende uccidendo uno dei banditi. La procura però ha stabilito che si è trattato di legittima difesa. Ne parliamo con l'avvocata Paola Ghirardelli, che tra l'altro ha scritto un libro che si intitola Legittima difesa, quando e come difendersi nel rispetto della legge. Buonasera avvocata Ghirardelli. Buonasera a tutti voi. Quindi ha sentito di questo caso, è un caso insomma che non ci si aspettava forse ultimamente, visto che per lo più sembrava che un po' tutti quelli che si erano difesi venivano accusati di eccesso colposo e illegittima difesa, no? Da tempo si dice che deve essere cambiata questa legge, però mi pare che l'iter parlamentare sia decisamente bloccato. Sì, sta andando molto a rilento, probabilmente come tutti sappiamo, lo ricordate sempre voi nelle notizie, le emergenze al momento sono altre, però sicuramente c'è stata una battuta d'arresto su un intervento che tra l'altro è molto auspicabile, però è sul quale è bene riflettere, nel senso che da quello che ho potuto vedere io sui primi lavori parlamentari la materia più che semplificandosi si va complicandosi, quindi in un sistema legislativo come quello italiano in cui le leggi sono veramente, veramente anche per gli operatori del diritto spesso farraginose e non poco comprensibili, ecco, forse sarebbe meglio che quando si mette mano ai codici per rivederli, si evitino pasticci e quindi insomma siano scelte molto, molto meditate. Certo, quindi è un argomento... Quindi la battuta d'arresto, esatto, può essere anche... Per una riflessione, dice, esatto, più attenta. Può essere anche, esatto, può essere anche una cosa positiva. È positiva sicuramente la notizia che ricordava lei sulla conclusione della vicenda di questo povero uomo, che questo padre di famiglia che si è trovato in questa spiacevole situazione, si è dovuto insomma comunque difendere la figlia che addirittura era minacciata con un coltello da questi soggetti che hanno invaso, diciamo, il suo domicilio proprio anche per nuocere, non soltanto per ledere il suo patrimonio, ma anche proprio insomma la loro incolumità. Quindi sicuramente questo, tra l'altro, è proprio, almeno per le ricostruzioni, sa, noi diciamo sempre bisogna vedere gli atti, le carte, bisogna capire bene le indagini come si sono svolte, però da quello che viene raccontato e dalle dichiarazioni che lui stesso ha fatto, questo è proprio un caso scolastico, diciamo, di legittima difesa. Qui ci sono proprio tutti i requisiti che ci potevano essere, i soggetti erano armati con armi da fuoco, quindi c'è la proporzione che nel domicilio è presunta, però comunque è un elemento richiesto, c'è lo stato di necessità di difendere i propri congiunti, erano minacciati sia la moglie che la figlia, la propria incolumità perché loro, dopo che lui ha sparato in aria, hanno sparato verso di lui, quindi è stato proprio un difendersi. Perciò in questo senso, anche se l'indagine sta, mi pare, a tutto campo, perché comunque è passato quasi un anno, sì, 10 mesi dall'archiviazione, esatto, dall'archiviazione, quindi sicuramente sarà stata molto approfondita, però ecco, diciamo che la richiesta di archiviazione senza neanche la necessità di procedere a un processo che poi poteva concludersi con una soluzione, sicuramente da un quadro della situazione che è proprio appunto di un fatto che rientrava pienamente in quella che è la scriminante, cioè la causa di giustificazione della legittima difesa. Purtroppo non sempre, come ricordava lei, c'è la fortuna di avere casi così nitidi, spesso siamo un po' in una zona grigia in cui questi paletti che vengono messi dalla norma, proporzionalità, necessità, che l'offesa sia ingiusta, che non ci sia la fuga, la resistenza, insomma una serie di requisiti che poi anche la giurisprudenza tende a interpretare in senso restrittivo a sfavore, diciamo, di chi viene aggredito, molto spesso creano delle situazioni che in moltissimi casi, forse purtroppo la maggioranza, portano invece a delle condanne poi con risvolti anche economici pesanti. Ci sono stati dei casi in cui sono stati dati anche dei risarcimenti ai familiari di questi banditi che appunto erano stati uccisi di svariate centinaia di milioni di euro, quindi insomma comunque anche 100.000 euro, lei capisce che un povero pensionato, un gioielliere che si trova a dover anche risarcire oltre naturalmente a una condanna penale, si trova in una situazione veramente spiacevole. Chiaro, avvocato Ghirardelli. Quindi diciamo, certamente non deve esserci il Far West, ma c'è qualcosa da cambiare probabilmente in questa legge, tanto che era stato cavallo di battaglia della Lega, ma l'Italia dei Valori ha raccolto 2 milioni di firme, quindi evidentemente un successo che ha spiazzato anche gli stessi organizzatori, 2 milioni di firme tra coloro che vorrebbero che si cambiasse un po' questa legge. Lei è d'accordo che qualcosa va cambiato? Sì, sono assolutamente d'accordo. Ci terrei a fare una precisazione, però attenzione che il cambiamento non dovrebbe essere in senso... Molto spesso io sento parlare, no, di maggiore distribuzione di armi, quindi non si tratta di allargare le maglie, quindi cioè dare una maggiore tutela a chi si deve difendere, nel senso di dargli maggiori strumenti di difesa fisici anche, nel senso non si tratta di armare come in America succede e si vede peraltro diversissimi risultati, ma quello di tutelare maggiormente quello di chi viene aggredito. Mi spiego meglio. Spessissimo, come non accade invece in altri ordinamenti, tipo quello tedesco, quello austriaco, quello svizzero, insomma nei paesi nordici, noi, il giudice in particolare, quando applica la legge, perché non ce l'ha come requisito, tiene in scarsissima considerazione l'aspetto psicologico. Certo. Quindi molto spesso chi si trova ad applicare la legge per come è configurata adesso non tiene conto di questo aspetto e della tensione di chi riceve, insomma, dei ladri, dei banditi improvvisamente in casa o nel negozio. Avvocata Ghirardelli, ci dobbiamo lasciare, ma è stata chiarissima e probabilmente si tornerà ancora su questo argomento. Grazie e buon lavoro. Grazie mille, altrettanto. Buonasera. Grazie. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Notizie importanti, referendum, l'ambasciata americana si schiera per il sì, il no sarebbe un passo indietro, avverte l'ambasciatore, opposizione minoranza PD in rivolta. Per quanto riguarda l'economia, Renzi conferma che i dati di stima del PIL sono inferiori al previsto, ma possiamo fare il salto. Per il Movimento 5 Stelle, Raggi e Appendino oggi insieme in Campidoglio e Di Maio e Di Battista in televisione riconoscono gli errori sul caso Muraro. Spazio europeo. Europa 24 notte. Dal 10 al 17 settembre vi è in corso la seconda edizione della Settimana Europea dello Sport. Si tratta di un'iniziativa prevista dalla Commissione Europea finalizzata a promuovere la partecipazione sportiva e l'attività fisica di base nei paesi membri dell'Unione Europea. Una canzoncina che suona da altri tempi, non c'è che dire, come il gioco della campana o le corse nei prati. Sono le immagini scelte per lo spot da tormentone di questa settimana targata a Bruxelles, la Settimana Europea dello Sport. In un continente che di movimento ne ha bisogno, e come, se è vero ad esempio che l'obesità è in crescita esponenziale e nel 2030 si calcola che riguarderà un europeo su due. Già oggi il costo economico e sociale dell'obesità è pari a 70 miliardi di euro nell'Unione e si spendono quasi 200 milioni di euro al giorno. Un altro dato? Gli italiani sono tra gli europei che guardano di più la televisione, secondo uno studio presentato al Parlamento di Strasburgo. Stiamo seduti in poltrona in media 4 ore e 22 minuti al giorno, alle spalle solo di rumeni, portoghesi e ungheresi. E non c'è che dire, davanti alla TV di sport non se ne fa molto. Così, al di là degli spot e dei convegni che costelleranno tutta la settimana, in pieno dibattito olimpico in Italia, l'Europa ha aperto anche i cordoni della borsa. Nel piano di finanziamenti in corso 2014-2020 è stato istituito per la prima volta un programma di finanziamento specifico per i progetti dedicati allo sport. Sono stati definiti due bandi che dispongono di una dotazione di 16,4 milioni di euro per partenariati di collaborazione ed eventi sportivi a livello europeo. Non per le grandi competizioni di cui l'Europa abbonda, ma per lo sport di tutti. Che ritmo, ma senti che ritmo armonioso ti serpeggia dentro il cuore e ti lascia sempre un strano pizzicor. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E sembra che prosegua bene la partita del Napoli in Champions League, vero Dario Ricci? Sì Roberta, ti confermo, Napoli in vantaggio sempre per 2-1 a Kiev quando siamo al 53esimo del secondo tempo. Decide finora a favore dei partenopei la doppietta del polacco Milik, che ha rimontato il vantaggio ucraino siglato al 26esimo da Garmash. Grazie Dario Ricci, per il momento prosegue bene, quindi su questo risultato ci lasciamo momentaneamente, vi riaggiorno alle 22.